Il problema è che il mercato interno, quell'85% che noi produciamo e che va al consumo interno, è seriamente minacciato da un calo progressivo e costante dei consumi alimentari in Italia. Per cui è un dovere, non è che dobbiamo andare all'estero, altrimenti ci ritroveremo prodotti in eccedenza e prezzi bassi, come in realtà sta accadendo in molte produzioni. Quindi il riuscire a crescere nel mercato estero è un'opportunità, ma in un certo senso è anche un obbligo. E questo lo dobbiamo fare mettendo assieme ciò che oggi qui alla Campionaria abbiamo più volte richiamato: qualità, distintività e capacità organizzativa.